Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salvadanaio, buona giornata a tutti. Questa giornata torrida in molte città italiane, noi insomma ce la scampiamo via con l'aria condizionata, ma in molte città italiane oggi è davvero terrificante il livello della temperatura raggiunto. Perché parto così? Perché è questo un po' anche, questa è un po' anche l'immagine che potremo adottare per descrivere quello che è successo sui mercati finanziari internazionali, almeno fino ad ora in questo mese di agosto, un mese caldissimo, terrificante per certi aspetti. E allora, dopo le puntate speciali con le quali vi abbiamo intrattenuto nelle scorse settimane, Salva Danaio torna a cavalcare la cronaca economica e finanziaria con un occhio di riguardo al mondo dei piccoli risparmiatori. Peraltro una campagna anche che è stata seguita, come sapete, molto attentamente anche dal Sole 24 Ore negli ultimi giorni, negli ultimi tempi. Parleremo quindi di borsa, di mercati. Stamattina per l'azionario, per le borse appunto europee, l'apertura è stata un po' agitata, di nuovo in rosso, poi c'è stato un rapido cambio di tendenza, un nuovo segnale della forte volatilità che ormai è diventato il tratto dominante delle sedute dell'ultimo mese. Lo scatto in avanti lo ha registrato in particolare Piazza Affari grazie alla questione libica, ma dobbiamo ricordare che dallo scorso fine settimana si è chiuso in rosso per i listini europei che hanno registrato nei due giorni precedenti le maggiori perdite dal novembre del 2008. Ciò che preoccupa maggiormente gli investitori sono i timori di una nuova recessione a livello globale dopo il taglio sulle stime di crescita da parte di grandi banche d'affari e di grandi istituzioni finanziarie come Morgan Stanley e Citigroup. Anche JP Morgan ha confermato la revisione a ribasso, e su questa revisione a ribasso, alla base di questa revisione a ribasso, c'è la criticità appunto del debito pubblico di Europa e Stati Uniti, tutti i temi sui quali i giornali si sono molto divertiti nelle ultime settimane, forse noi un po' meno. Comunque oggi è il 22 di un mese letteralmente da dimenticare per i mercati internazionali. Borse di nuovo sui livelli minimi in cui si trovavano tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, culmine appunto della crisi originata dai mutui subprime. In pratica questa estate 2011 ha cancellato la ripresa dei corsi azionari degli ultimi due anni e mezzo, per non parlare poi di quello che è successo sui titoli di Stato, per non parlare di quello che sta accadendo sui beni che i risparmiatori considerano il rifugio, le valute, l'oro record. Stamattina Oscar Giannino ha definito questa situazione più volte il ballo del mercato, che pare orientato peraltro a continuare. Fino a quando e come si può approfittare di una situazione che è ancora appunto sull'otto volante, ma qualcuno forse ha questa tentazione? Come può farlo senza scottarsi le mani, stare lontani da tutto e lasciar fare ad investitori qualificati, o magari con prudenza si può ipotizzare di prendere qualche posizione anche sul mercato azionario? Come orientarsi sui titoli governativi? Portafoglio di fine estate oggi a Salva Danaio, con un occhio naturalmente anche a quanto accaduto nelle ultime settimane. Vi faremo anche un po' un rapido riepilogo dei principali avvenimenti. Io ringrazio e saluto Antonio Tognoli, vicepresidente di Integra SIM. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno anche a Luca Vagliani, responsabile degli investimenti attivi di Fondaco SGR. Buona giornata. Buongiorno. Più tardi ci collegheremo anche con un consulente indipendente, con Michele Colosio, fondatore e animatore del Patrimonialista, che ci darà invece la sua chiave di lettura di questa fase dal punto di vista dei clienti che ha dovuto seguire in questi ultimi periodi, per capire anche come ha gestito, come è riuscito a farlo, se è riuscito a farlo appunto l'emotività, a gestire appunto l'emotività delle persone che chiedono la sua consulenza per la miglior gestione del proprio risparmio. Naturalmente avete l'opportunità di intervenire chiamando all'800 24 0024, oppure ci potete scrivere i vostri messaggi, le vostre considerazioni al 349 238 6666, o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Andiamo a vedere la borsa di questa mattina, i temi che la stanno movimentando. Come vi dicevo, l'apertura era stata di nuovo in rosso dopo la seduta in rosso già segnata appunto venerdì scorso. Parigi poi, insieme a tutte le altre piazze europee, hanno cambiato direzione. Adesso il listino francese segna un più 1,44%, Londra più 1,25%, Francoforte meno movimentata, guadagna appena lo 0,28%, Milano invece più 2,31%, grazie al recupero vigoroso stamattina di molti titoli del settore bancario. Ma i temi della giornata sono Ansaldo ed Eni, perché la evoluzione positiva, almeno speriamo, della crisi libica sta portando questi titoli a crescere di nuovo. Queste società erano state in qualche maniera estromesse dall'attività in questa in quest'area negli ultimi mesi, dall'inizio dell'anno in particolar modo. Oggi ci sono anche delle affermazioni del ministro degli esteri Franco Frattini, che ha confermato il ritorno dei tecnici ENI in Libia, aggiungendo che il cane a sei zampe ha un futuro da numero uno nella Libia post Gheddafi. Pensate, insomma, un ministro del nostro governo che si esprime in questi termini su una società quotata. In ogni caso, il titolo ne risente bene a Piazza Affari, guadagna il 5,13%, Ansaldo più 5,29%. Bene le banche, come vi dicevo, Ubibanca più 3,32%, Intesa più 2,65%, Generali più 2,47%, Unicredit più 2,22%, ma non sono solo le banche a crescere, perché anche Telecom mette a segno un più 2,68%, Diasorin più 2,66%, A2A più 2,41%, Toz più 2,29%. In negativo abbiamo Fondiaria SAI che perde un punto, Pirelli meno 0,6%, STM meno 0,43%. L'euro sul dollaro a 1,44,04, il petrolio a New York è a $83 al barile, il Brent a Londra a 107, c'è questo differenziale enorme fra le due tipologie appunto di greggio. E l'oro stamattina, ormai proiettato verso i $1,900 l'oncia, ha toccato il nuovo record a $1,894,80 l'oncia. Per quello che riguarda Piazza Affari, peraltro, non abbiamo segnalato una cosa importante, che il FTSE MIB nel suo massimo rialzo questa mattina è arrivato al più 2,86%, ha superato i 15.000 punti, adesso è scesa di nuovo sotto questo livello, ma forse in una tendenza di recupero questa soglia viene attentamente considerata da analisti, i gestori ed investitori professionali. Allora, lasciamo appunto la borsa di questa mattina, andiamo un po' ai temi che hanno scosso nelle ultime settimane. Io stamattina mi sono un po' ridivertita a riguardare i giornali dall'inizio di agosto fino alla scorsa settimana e così avevo mi sono un po' ricordata di come già a luglio non è che fosse stato molto promettente, ma che in pratica all'inizio di agosto a scuotere il mercato era stata in particolar modo la discussione al photo finish al congresso americano per trovare l'accordo sull'innalzamento del tetto del debito. Da lì in avanti agosto letteralmente da dimenticare, sia per il mercato azionario che per quello obbligazionario. Allora rifaccio un po' un check-up alle settimane passate con Antonio Tognoli e Luca Vaiani, i nostri primi due ospiti di questa mattina, per chiedere loro quali, secondo il loro punto di vista, sono stati i temi che hanno sorpreso di più la nuova prorompente discesa della borsa, l'allarme sulla tenuta del debito, abbiamo visto quello che è successo in Italia, il declassamento dei titoli USA. Antonio Tognoli, comincio da lei per chiederle se quali sono state le nottate in cui ha dormito un po' meno, insomma, pensando al mercato. Sì, direi non tanto il declassamento dei titoli USA quanto sicuramente l'incertezza riguardo i dati che via via uscivano e sicuramente l'incertezza legata al fatto che il congresso americano avrebbe anche potuto teoricamente almeno mandare in default l'intero paese. Fortunatamente non è avvenuto. Da lì però è stato un susseguirsi di incertezze molto elevate, e nel momento in cui, non dimentichiamo che il mercato americano era molto vicino ai massimi o comunque in quell'intorno, da lì in poi l'incertezza ha fatto sì che comunque gli investitori, quando c'è incertezza, intanto cominciano a vendere, no? e poi stanno a vedere, e da lì si è cominciato a riconsiderare le possibilità che effettivamente ci sia una nuova recessione. Personalmente non credo, ma questo già lo dicevamo all'indomani del 2008, quindi 2009-2010, dicevamo attenzione perché i prossimi 3-4 anni gli Stati Uniti, l'Europa, ma il mondo intero, probabilmente Cina forse a parte, crescerà ad un tasso inferiore al potenziale di crescita, e questo è quello che sta avvenendo. Forse le borse avevano scontato una ripresa troppo veloce, e quello che probabilmente succederà è che effettivamente ci sarà una crescita di sotto il potenziale. Del resto è abbastanza scontato se si pensa che i debiti sono molto elevati in tutti i paesi, dall'Europa ma dagli Stati Uniti stessi stanno facendo politiche fiscali restrittive, e è chiaro che in questa situazione è difficile coniugare una crescita economica e contemporaneamente una riduzione del debito, e quindi al di sotto del potenziale vuol dire proprio questo. Tognoli, politiche fiscali restrittive, le diceva, che riguardano molti paesi in questo momento, a fronte invece di politiche monetarie condotte dalle banche centrali estremamente espansive, che rimarranno così ancora a lungo lungo. Adesso vedremo anche la Banca Centrale Europea se manterrà questa tentazione di fare un altro aumento dei tassi di interesse entro la fine dell'anno. Di fatto invece la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, ha detto che manterrà i tassi su questo livello nella prima riunione del mese, appunto, del Federal Open Market Committee, almeno fino alla metà del 2013. Mi spiega perché le politiche monetarie così espansive non riescono più a trasmettere il loro impulso all'economia reale, visto che hanno proprio questo obiettivo, quantomeno negli Stati Uniti? Beh, diciamo che siamo molto vicini a quella che nei testi viene definita la classica trappola della liquidità, nel senso che qualsiasi politica monetaria espansiva non ha effetti sulla crescita, proprio perché il denaro è molto facile acquisirlo. Allora servono politiche fiscali, ma le politiche fiscali per stimolare la crescita devono essere accomodanti, non restrittive. Capisco che dall'altro punto di vista ci siano i vincoli di bilancio, ma il punto fondamentale rimane: bene, io mi indebito personalmente come azienda o come Stato, ma se riesco ad impiegare i soldi che prendo a debito, ovviamente la metto molto banalmente, ad un tasso superiore a quello che pago, ecco che allora il mio debito non solo viene ripagato, ma ho anche una crescita. Ovviamente non dico che questo è facile, ma sta proprio qui il cuore. Purtroppo le politiche monetarie non riescono a smuovere l'economia reale, perché siamo molto vicini a quella che viene definita trappola della liquidità. Luca Vaiani è d'accordo? Io con Luca Vaiani mi sono fatta una bella chiacchierata prima dell'inizio della trasmissione e anche a lui, appunto, chiedevo un commento sui fatti che hanno movimentato le ultime settimane finanziarie, cercando di capire anche attraverso il suo punto di vista come mai abbiamo vissuto questa situazione, anche perché nei mesi passati, quando notavamo il comportamento degli stati sovrani intervenire fortemente per salvare, appunto, il capitale delle banche, per salvare le banche, perché un nuovo default come quello di Lehman Brothers avrebbe veramente sconvolto tutto l'equilibrio finanziario internazionale, e insomma ci eravamo anche detti molto spesso, non tanto con Luca Vaiani e con gli ospiti di stamattina, ma con tutti quelli che intervenivano a Salvadanaio, che prima o poi comunque il conto gli stati l'avrebbero pagato. Adesso siamo arrivati a naturalmente al cosiddetto nodo del pettine, ma mi chiedo, Vaiani, qual è la sua interpretazione su questo tema grosso, che è quello che è il cuore della crisi della borsa delle ultime settimane, cioè la revisione della crescita mondiale che ci descriveva prima anche Antonio Tognoli? Perché il meccanismo economico mondiale non si rimette in marcia? Perché tutte le azioni delle banche centrali mondiali, che stanno tenendo raso terra i tassi di interesse, non servano? Anzi, sta tornando anche un po' di tensione fra le banche, che invece di prestarsi denaro tra di loro si rivolgono appunto alle stesse banche centrali. Non è che stiamo ritornando di nuovo verso quella situazione dell'autunno del 2008? Ho messo un po' troppa carne al fuoco? No, però secondo me una delle questioni principali per le quali alcune delle politiche economiche che sono state messe, che sono in atto, non funzionano come ci si aspettava che si dovesse, è che il contesto è molto diverso. Qual è la differenza? La differenza è che oggi siamo in un contesto di leverage dei bilanci. Siamo entrati nella crisi nel 2008 per un eccesso di debito nel sistema economico. Questo eccesso di debito esiste ancora, semplicemente è stato trasferito dal bilancio del settore privato al bilancio del settore pubblico, ma non è stato ridotto in modo significativo. Per cui tutto ciò che è di espansivo, che c'è di espansivo, si scontra con delle caratteristiche proprie del sistema, che invece sono rivolte alla riduzione del rischio, alla riduzione della dimensione dei propri bilancio, e che quindi rende meno efficaci che non in passato alcuni provvedimenti di politica economica, monetaria o fiscale. Questo è il tema. Questo cosa significa poi sulla crescita? Significa che l'impatto è negativo sulle aspettative di crescita, e l'impatto è negativo sulle aspettative di inflazione. E le politiche economiche che sono state messe in atto dalla Banca Centrale Americana hanno avuto principalmente lo scopo di inflazionare gli asset finanziari per generare una sorta di effetto ricchezza che avrebbe potuto in una fase successiva riattivare il canale del consumo, riattivare il canale quindi della spesa in conto capitale, e in seconda battuta dunque dell'occupazione. Questo non è avvenuto, e non è avvenuto per un motivo che secondo me che ho appena citato, dunque anche le banche stesse che si ritrovano in una condizione di poter prestare a tassi molto bassi in realtà sono poco incentivate a farlo, proprio perché l'obiettivo primario loro è quello di ridurre la propria esposizione al rischio, ridurre la dimensione dei propri bilanci e quindi detengono delle riserve in eccesso nei confronti delle banche centrali, dunque la liquidità che viene pompata nel sistema nella sostanza non arriva all'economia reale, ma il meccanismo di trasmissione della politica monetaria in qualche modo si è interrotto. Sì, in senso generale. Poi quando si guarda cosa è successo nelle ultime due settimane, secondo me il tema principale è questa fortissima revisione al ribasso delle prospettive di crescita, perché la questione legata al debito americano è certamente una questione che ha messo molta volatilità, certamente una questione che ha pesato, però il giorno successivo al downgrade da parte di S&P i bond americani, i prezzi dei bond americani sono saliti, proprio perché il mercato ha apprezzato in modo molto forte una riduzione delle attese di crescita. Oggi il mercato obbligazionario americano tratta ancora sulla base delle modifiche delle aspettative di crescita economica, non tratta sulla base del rischio di credito. Sono le revisioni di crescita che hanno un impatto sull'andamento dei tassi. Ricordo per esempio cosa successe in Giappone quando il Giappone perse la AAA tra il 2001 e il 2002, i tassi erano più alti dei livelli in cui ci troviamo ora. No, io tra l'altro adesso stavo ragionando sul fatto che vi ho fatto fare delle analisi macroeconomiche molto importanti, molto molto ampie, e volevo solamente anticipare ai nostri ascoltatori che nella seconda parte della trasmissione, detto tutto questo, cercheremo anche di capire come potervi dare qualche indicazione pratica di comportamento in una fase come questa, fermo il principio naturalmente che ognuno deve agire secondo la propria propensione al rischio, secondo le proprie esigenze di risparmio, secondo quello che è l'obiettivo anche del proprio investimento e del proprio risparmio soprattutto. Cosa devo fare del mio denaro, lo devo movimentare entro breve tempo, posso avere ancora un po' di pazienza? E siccome l'altra grande regola che ci hanno insegnato in questi anni è che quando ci sono degli scossoni di mercato come quelli recenti, l'atteggiamento più suggerito è quello di rimanere fermi, quello che poi notiamo è che invece la discesa delle borse è prorompente, i rendimenti dei titoli di Stato schizzano alle stelle, allora significa che non c'è proprio nessuno che sta fermo, per cui un piccolo risparmiatore in un maremoto come questo che tipo di atteggiamento deve adottare? Salvadanaio oggi torna a cavalcare la cronaca economica e finanziaria. Ripartiamo dunque con la nostra trasmissione dopo le puntate speciali delle ultime settimane, rimonitorando l'andamento dei mercati finanziari. Tra l'altro in genere indichiamo come settembre il mese nel quale fare un po' il check-up al proprio portafoglio di investimento. Quest'anno necessariamente forse qualcuno sta anticipando questo appuntamento, l'appuntamento con il proprio promotore finanziario, con il proprio consulente finanziario, ed è bene che magari si abbiano in mente gli eventi che hanno movimentato le sedute di borsa delle ultime settimane, così magari per fare anche una chiacchierata più consapevole, più matura con il proprio consulente di investimento e magari cercare di capire meglio, anche se è il caso, sulla scia di quello che è accaduto, di modificare il proprio portafoglio, perché magari ci si è resi conto che tutta la volatilità che il proprio portafoglio ha subito nelle ultime settimane non si è in grado di sopportarla, e allora forse è il caso di rivedere la propria esposizione sulle azioni e magari privilegiare altre asset di investimento. Così forse questa è un po' la linea seguita da Michele Colosio, consulente indipendente, che abbiamo interpellato anche per aiutarci a capire qual è magari la miglior conversazione possibile da fare in una fase come questa con il proprio consulente. Colosio, buongiorno e benvenuto a Salvadanaio. Ci sente? Colosio no, non ci sente ancora, adesso allora lo ripristiniamo nel collegamento telefonico, e poi vi ricordo anche che sono con noi Antonio Tognoli, vicepresidente di Integra Sim, e Luca Vagliani, responsabile investimenti attivi di Fondaco SGR. Abbiamo ricordato un po' i principali temi che hanno caratterizzato le ultime settimane, dall'inizio d'agosto la discussione al congresso americano sull'innalzamento del tetto del debito, accordo trovato al photo finish, ma la incertezza politica è costata la perdita della AAA sul debito subito americano agli Stati Uniti, e questo è accaduto appunto nel weekend tra il 6 agosto e il 7, la tripla A che gli Stati Uniti tenevano dal 1941, ma non ci dimentichiamo quello che è successo in Europa con anche l'euro sotto scacco da parte dei mercati internazionali, la pioggia di vendite che ha interessato i titoli di Stato del nostro paese al punto che la Banca Centrale Europea sta facendo man bassa sul mercato secondario dei titoli italiani. Antonio Tognoli, volevo chiedere a lei un commento su questo. È un fattore che ci deve dare più sicurezza per tutte quelle persone che hanno in portafogli in questo momento titoli di Stato italiani e che magari stanno andando a scadenza. Anzi, le faccio sentire un commento di un ascoltatore proprio su questo argomento e poi le chiedo appunto la sua analisi. Sergio da Cremona, buongiorno. Buongiorno a lei. Sergio, può abbassare la radio perché sentiamo l'eco? Sì. Grazie. Sì. Pronto? Sì, ci sente. Volevo dire, stante la situazione, so che non potete dare delle indicazioni ben precise, però su un investimento fatto 100, 70 le ho in titoli di Stato, e quindi mi scade un titolo di Stato di 30.000 euro, e volevo sapere se valeva la pena approfittare delle condizioni minimali delle azioni, tipo banco Popolare, tipo anche Eni, tipo Enel. Ecco, se valeva la pena magari... Insomma, chiederemo ai nostri ospiti se loro farebbero una scelta di questo tipo. Sergio, io la ringrazio. Tognoli, partiamo intanto dalla questione dei BTP acquistati dalla Banca Centrale Europea. Questo atteggiamento ci deve tenere più tranquilli o in realtà ci deve preoccupare un po'? Sicuramente ci deve tenere più tranquilli e lo abbiamo visto perché lo spread immediatamente si è ridotto rispetto ai bund. Questo non vuol dire però che la BCE poi sistema comunque le cose, no, è chiaro che a casa nostra per quanto ci compete dobbiamo noi fare quelle riforme strutturali a questo punto che l'Europa ci chiede, quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, ovviamente sui titoli di Stato che chiedeva l'ascoltatore, lì bisognerebbe capire che tipo di scadenza. Personalmente io non andrei ad allungarmi molto, investirei tra 2 anni e 3 anni, non di più, salvo evidentemente che comunque non si dica bene, ma comunque io sono disposto a allungare l'orizzonte temporale perché da 10 a 20 a 30 anni, perché comunque non ho necessità di avere quei quattrini fra 2 o 3 anni e sono disposto a sopportare il rischio. Allora però uno deve essere consapevole che sta sopportando un rischio paese Italia diverso da un rischio paese Bund, quindi questa è la prima cosa. Sui titoli azionari evidentemente insomma, non possiamo dare, però io quello che consiglierei, anche visto che abbiamo parlato di banche, non guarderei solo l'aspetto reddituale delle banche, ma guarderei anche l'aspetto patrimoniale. Ecco, questo è quello che mi sento un po' di consigliare. Poi approfondiamo il tema proposto da Sergio da Cremona, perché in questi giorni molti giornali enfatizzano l'aspetto che molti titoli hanno raggiunto quotazioni molto basse, prezzi stracciati, saldi in borsa, leggiamo titoli di questo genere, ma se cambia l'assetto economico mondiale cambia anche forse la giusta valutazione di questi titoli. Che lo dice che i prezzi di oggi non siano corretti o che non siano poi così tanto sottovalutati e che magari hanno grandi prospettive di crescita acquistandoli a questi prezzi effettivamente molto ridotti sicuramente, però non è detto che questo sia l'atteggiamento giusto da adottare, non è detto che quello che è successo nel marzo del 2009 quando in molti hanno acquistato sui titoli a prezzi minimi possa ripetersi quella situazione e quindi magari nel giro di 2 anni riconquistare posizioni molto vantaggiose. Adesso affronteremo anche questo aspetto, nel frattempo abbiamo recuperato Michele Colosio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, Colosio, consulente indipendente, fondatore e animatore del Patrimonialista, che è uno studio di pianificazione patrimoniale personale, le chiedo, agosto per lei con i telefoni roventi ha dovuto arginare molta preoccupazione da parte dei suoi clienti oppure tutto sommato li aveva ben consigliati prima e l'hanno lasciata tranquillo sotto l'ombrellone? Perché, lo dicevo anche prima, in questi frangenti sento che il suggerimento più diffuso è stare fermi, poi però le borse crollano, i rendimenti dei titoli di Stato volano, insomma sembra proprio che nessuno stia fermo. Come si fa a dire ad un cliente che ci ha affidato l'organizzazione del proprio risparmio di tutta la vita, stai tranquillo e stai fermo? Ma giustamente il lavoro deve essere preliminare alla fase di crisi Posso dire che generalmente i miei clienti sono preparati ad affrontare anche momenti difficili come quelli delle ultime settimane, in quanto nella fase di impostazione del portafoglio, che è personalizzata, cerco di sottolineare particolarmente i rischi dell'investimento e anche attraverso delle domande ad hoc cerco di percepire qual è il loro grado di avversione alle perdite, in modo che poi anche i ribassi importanti non facciano superare quella che possiamo definire come la soglia di sopportazione. Qual è una tipica domanda ad hoc, Colosio? Ma la tipica domanda ad hoc banalmente è quella quanto si è disposti a vedere il portafoglio, il ribasso del proprio portafoglio in un certo arco temporale che è generalmente l'anno. Ecco, mm-hmm. Grazie a questa domanda innanzitutto si inizia a capire qual è un livello da monitorare oltre il quale il cliente probabilmente andrebbe in situazione di panico. In queste situazioni tipicamente si ragiona male, si perdono di vista quelli che sono i propri obiettivi di lungo periodo e si fanno scelte dettate dall'emotività che molto spesso poi si rivelano a posteriori le scelte peggiori, ecco, ad esempio quella di vendere sui minimi del mercato o viceversa farsi cogliere dall'euforia e comprare ai massimi. Quindi nessuno l'ha chiamata per esprimere la sua preoccupazione e per chiederle: senti, ci facciamo una chiacchierata prima di settembre per capire se devo modificare la composizione del mio portafoglio? No, questo è avvenuto. Innanzitutto cerco io di essere di chiamare personalmente ogni cliente in queste fasi anche solo per rassicurarli e per verificare lo stato d'animo, anche perché effettivamente nella realtà succede che quella che è la percezione del cliente poi di fronte all'effettivo verificarsi della crisi viene un pochino meno e quindi bisogna, il nostro compito in questo caso è rifocalizzare il cliente sui suoi obiettivi di lungo periodo, verificare con lui, cercare di ricordare il perché sono state fatte determinate scelte, le motivazioni alla base delle scelte e se nulla è cambiato assolutamente confermiamo appunto la nostra visione, anche perché devo dire che mediamente i clienti avevano una buona dose di liquidità in quanto negli ultimi mesi i prezzi delle azioni e gli stessi rendimenti offerti dalle obbligazioni non ci sembravano particolarmente allettanti. Appetitosi. Senta, invece, tornando anche allo spunto che ci ha offerto l'ascoltatore da Cremona che ha chiamato poco fa, poi su questo punto vorrei sentire anche Luca Vagliani. Lei dice: chi ha scoperto con la crisi di agosto di non essere in grado di sopportare tutta la volatilità del mercato azionario, magari è bene che si faccia la chiacchierata con me o con il consulente finanziario per rivedere l'esposizione sull'equity. Chi invece, dati i prezzi che molte società hanno raggiunto, è tentato dall'entrare ora in borsa facendo naturalmente delle scelte prudenti, su questo non finiremo mai appunto di dare tutte le raccomandazioni del caso ai nostri ascoltatori, chi volesse fare delle scelte prudenti ma comunque coraggiose data la volatilità che la borsa sta ancora manifestando, insomma lei qual è l'atteggiamento che suggerirebbe di adottare ad un piccolo risparmiatore appunto tentato in questo senso? Ma sicuramente ci possono essere delle buone occasioni e in questo il nostro approccio non è quello di comprare il mercato, quindi attraverso un ETF, un fondo, perché valutare il mercato nel suo complesso è piuttosto difficile e lo vediamo poi la volatilità e l'emotività del mercato non è controllabile, è fuori dal nostro controllo. Quello che invece possiamo fare è selezionare singoli titoli, singole azioni sulla base di alcuni determinati e precisi requisiti, ad esempio quello di che il titolo abbia una lunga storia di redditività e soprattutto è molto importante in questa fase dove c'è un generale rientro dai debiti, che abbia una buona solidità finanziaria, quindi un basso livello di indebitamento. E poi ovviamente va verificato che il prezzo, che è la singola variabile più importante poi nella determinazione della performance sia un prezzo congruo o meglio ancora sottovalutato rispetto al valore intrinseco. Quindi detto questo mi sentirei tranquillo nel consigliare alcuni titoli scelti sulla base di questi criteri, perché poi posso anche sopportare un eventuale ribasso ulteriore dovuto alla situazione del mercato. Meno tranquillo sarei nel consigliare l'acquisto di un indice, quindi del mercato in generale. Beh, anche questa è una posizione sicuramente originale, perché io invece mi aspettavo un suggerimento del tutto contrario, proprio per come dire, bilanciare i rischi della borsa, comprare un fondo il più articolato possibile, il più diversificato possibile, per cui apprezzo anche appunto la sua analisi, che è sicuramente un po' controcorrente rispetto a quelle che si possono ascoltare in fasi come quella. Sì, ce la faccio anche a sentire Luca Vaiani sul punto che abbiamo proposto: quotazioni molto basse per i titoli azionari, saldi in borsa, è il caso di approfittarne o no, e se lo si volesse fare per forza come farlo? Vaiani, sì. Secondo me l'approccio che è appena stato sviluppato è un approccio intelligente, perché se uno guarda la possibilità o ragiona sulla possibilità di aumentare la propria esposizione azionaria oggi, probabilmente si accorge che le condizioni che hanno portato alla debolezza dei mercati non sono ancora passate o hanno avuto una risposta definitiva. Dunque ci sono delle incertezze sicuramente di natura di politica economica, quindi di iniziative di politica economica che devono essere intraprese. Ci sono delle questioni strutturali che per esempio all'interno dell'area euro possono gravare complessivamente sui mercati azionari, che hanno una elevata correlazione tra di loro, e dunque un approccio invece molto più legato all'analisi del singolo emittente, del singolo titolo, e alla conoscenza più specifica degli asset di un'azione, può portare ad avere a fare delle scelte che possono essere sensate, proprio perché i fattori specifici possono fare premio rispetto a fattori più di natura macro, che rimangono invece più difficili perché certe situazioni non sono ancora state affrontate in modo definitivo. Ora, l'idea per esempio che si diceva prima, che trovo corretta, cioè che le economie occidentali possano crescere nel medio e lungo periodo con un tasso di crescita significativamente più basso rispetto al passato, è una considerazione che secondo me ha un impatto sulle valutazioni, ha un impatto non soltanto sulla crescita degli utili, ma anche sulle valutazioni stesse. Tu compri qualcosa che cresce meno ad un prezzo inferiore tendenzialmente. Certo. Quindi questo è un ragionamento che ci sta, ma al tempo stesso la specificità del singolo titolo, quindi la conoscenza diretta dei singoli titoli, può portare a delle scelte che invece consentono di differenziare la performance del proprio portafoglio da una performance più, diciamo così, guidata da fattori macro. Certo. Quindi insomma, tanto per essere molto banali e per dare una corretta interpretazione magari per le persone che qualche volta qualche tematica la digeriscono un po' più a fatica, se 5 anni fa, no, facciamo un po' prima di 5 anni fa, magari 10 anni fa, l'economia marciava bene, un titolo era giusto che valesse 10 perché l'economia del proprio paese cresceva per esempio del 4%, faccio proprio dei numeri a caso naturalmente, tanto per fare un esempio che possiamo utilizzare per capire bene la situazione, se poi il proprio paese di riferimento cresce dell'1% per un lungo periodo, è chiaro che quella società quotata nella quale quel paese, nella quale appunto che opera in quel paese, che cresce molto meno, è chiaro che la sua valutazione è corretta, perché il proprio business viene naturalmente ridimensionato. Magari in borsa non è più corretto che valga 10 ma vale 5, ed è un fair value, come si dice appunto nel gergo finanziario, adeguato. Francesca, la sto facendo aspettare da un po', buongiorno, ci dica tutto. Pronto? Sì, Francesca, ci siamo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ho spento il gas perché sennò mi brucia tutto. Per carità del cielo, poi con questo caldo, guardi, spenga tutto, si mangi qualcosa di fresco. Allora, io quando vi ho sentito parlare qua di economia, eccetera, no? ho pensato anche ai miei risparmi. Adesso può fare ridere, no? Ma io ho meno di 10.000 euro. No, non fa ridere niente, Francesca, tutto, ci mancherebbe altro. Però... Anzi, brava che riesce a conservarlo, anche se è pochino, per le emergenze, per tutto quello che può capitare. Esatto. Dopo tanti anni, perché io... diciamo il primo investimento posso dire che ho fatto quando mi sono sposata, allora si può anche parlare così, è investito nel matrimonio, Francesca? Sono sposata nel 65 e io ogni volta che risparmiavo con mio marito prendevo dei buoni salva della Fiat che rendevano 5%. Vabbè, detto che quei livelli là non li vedremo mai più a meno che e poi dopo non investiamo in un paese che ovviamente magari rende molto, ma che ha un equilibrio politico precario e tante altre cose. Francesca, adesso cosa vuole fare del suo piccolo risparmio? Io ho questi meno di 10.000 euro, no? Li ho messi in banca, no? Però sento parlare dell'oro. E non sarebbe meglio comprare dei marenghi d'oro, delle sterline, delle cose d'oro, che almeno lì, se non ne ho bisogno subito, quello... anche fra 10 anni, 20 anni me li ritrovo. Allora Francesca, è una domanda che si stanno facendo in molti, anche i grandi investitori stanno molto puntando sull'oro. Stamattina, se le interessa, c'è anche un trafiletto del Sole 24 Ore a pagina 4, lingotti, monete o ETF per chi punta sull'oro, e quindi c'è un po' un'indicazione di tutti gli strumenti di investimento che si possono sottoscrivere per chi vuole puntare sul metallo giallo, ormai a $1,900 l'oncia. Detto questo, Michele Colosi, lo faccio fare il consulente. Se un cliente viene da lei e le dice: voglio approfittare della corsa delle quotazioni e il mio risparmio lo voglio mettere là, lei che cosa fa? Come fa una? Quali sono le domande ad hoc che ci diceva prima per capire se è l'asset giusta di investimento per quel risparmiatore? Che cosa direbbe a Carla, Francesca Carla? Ma innanzitutto le direi che sicuramente se li ritroverà, perché non spariscono. Il problema è domandarsi il valore che si ritroverà tra qualche tempo, e non è solo una considerazione fisica, e quindi direi che a questi prezzi obiettivamente l'oro incorpora parecchia incertezza, tutto quello che la sfiducia che c'è sui mercati, sulle stesse valute cartacee. E qua no, direi assolutamente che invece la diversificazione è opportuna, per cui se con una piccola parte, non so, un 5-10% del portafoglio ci si volesse ancora mettere sull'oro proprio ai fini di avere un salvagente, una protezione contro un ulteriore acuirsi della crisi, si può fare. Diverso il discorso di mettere tutto lì il mio capitale, perché l'oro me lo ritroverò anche tra qualche anno, perché ripeto, come le quotazioni si sono impennate, altrettanto se la situazione dovesse a livello finanziario rasserenarsi, non è impossibile vedere un repentino riposizionamento. Esatto, perché il tema è quello che magari nel lunghissimo periodo l'oro ha sicuramente avuto questa verticale, questo grafico che è andato solo all'insù, però poi dei momenti di storno, come si dice, molto repentini e molto profondi ci possono essere, poi magari l'oro riprende a crescere, però non vorrei che la nostra ascoltatrice, che ha un piccolo risparmio, si trovasse poi a dover affrontare proprio questa fase di discesa improvvisa e repentina e sicuramente inaspettata. Quindi sì, sicuramente può essere un asset interessante per una figura di investitrice, di risparmiatrice come questa, ma magari non tutto il proprio denaro va messo lì. Poi magari sapete che facciamo? Noi nelle prossime giornate vorremmo occuparci a Salvadanaio di tutte le novità introdotte dalla nuova manovra economica, appunto, di Ferragosto. Però siccome ancora non è niente di certo, magari prima di farlo, prima di vedere come si articolerà appunto la manovra in tutte quante le misure previste, faremo qualche approfondimento ulteriore invece sulle necessità di risparmio delle famiglie italiane. Magari andremo proprio a rifare un po' il punto su anche l'oro, se volete, e su tutte le scelte che state facendo in questo momento, per capire anche il funzionamento dei singoli strumenti di investimento, quindi come funziona il BTP piuttosto che l'azione, e come mettersi a riparo anche da volatilità così forte come quella che abbiamo visto nelle ultime settimane. Sentirei, per commentare con gli altri ospiti, chi scegliamo? Scegliamo Francesco da Genova. Buongiorno a tutti. Buongiorno Francesco, sì. Allora, siete investitore privato che di una certa età, che ha investito liquidazione tutto quanto in varie maniere come consigliato da promotori, cioè una parte azionario, piuttosto, diciamo, non rilevante rispetto, però sembra importante, è una parte obbligazionario. Queste, parliamo del 2007, dopo aver già preso il bagno del 2001. Certamente, dice lei, non mi sono fatto mancare niente. Vabbè, però il mercato è questo, Francesco, si va su, si va giù. Perfetto, nel 2007 andando avanti, diciamo, i titoli da cassettista, da risparmiatore, che hanno sempre dato un certo, si possono fare i nomi dei titoli? Ma facciamoli, Francesco, non saranno, se non mi dice delle parolacce, tanto riconosciamo quelli da cassettista, insomma saranno Eni, Enel, quelli che hanno... Enel, Unicredit, Telecom e Intesa San Paolo, tanto per far qualcosa, tanto per dirne alcuni, no? Cioè un pacchetto azionario ben distribuito. Da allora, seguendo riviste, consigli di promotore finanziario, sempre mantenere, a tutt'oggi sto mantenendo, ma a tutt'oggi stiamo sulle perdite del 60-70% su ciascuno. A questo punto la domanda di chi, come diciamo, prospettive temporali, considerando l'età dei 65 anni, possono essere un pochettino, insomma, non grandiose, via, no? Ma no. Speriamo di no, Francesco. Detto questo, comunque lei dice vorrei ricomporre il proprio portafoglio per proteggerlo un po' di più, per non vedere più queste discese del 60-70%, quantomeno recuperare qualcosa. Appunto, a questo punto, nessuno consiglia libere vendi, svendi, regala, fai brega e mettiti sull'obbligazione o sull'oro. Infatti. Tutti quanti dicono, diciamo, ma forse chissà se aspetti, ma ti limite anche accettare una perdita del genere, vuoi far tremare le gambe, no? Infatti, anche perché data la situazione dell'ultimo periodo, chissà adesso davvero quanto ci metteremo a recuperare. Francesco, devo subito andare ai miei ospiti perché fra 2 minuti e mezzo devo chiudere la trasmissione, però io, insomma, il concetto che ci voleva esprimere credo di averlo capito. Antonio Tognoli, che ne pensa di quello che ci sia? Non le chiedo commenti ovviamente sulle singole società indicate dal nostro ascoltatore, però il suo ragionamento non fa una piega. Lui ha tenuto, non aveva bisogno evidentemente di smontare il suo risparmio, ha adottato la strategia dello stare fermo, e però gli sta costando cara, e soprattutto, insomma, date le prospettive, non credo che potrà recuperare anche una parte minima del suo investimento nel giro di poco tempo. Che cosa gli diciamo? Beh, nel giro di poco tempo, se poco tempo intendiamo un anno, direi probabilmente no. Sicuramente il cassettista vede un investimento azionario un po' come un investimento obbligazionario, ovvero prende un rendimento legato al dividendo, probabilmente negli ultimi tempi superiore ai titoli di Stato. È chiaro che il fatto di essere superiore ai titoli di Stato e il fatto di essere capitale di rischio comporta appunto un rischio. Io non so quali siano le percentuali tra obbligazioni e azioni, spero per Francesco che siano basse quelle delle azioni in questo momento. La strategia è quella che si diceva, cioè con un meno 60% il consiglio è quello di tenere. Chiaro che nessuno garantisce che i titoli non possano scendere ancora, questo è ovvio. Comunque continuerà presumibilmente a percepire dividendo, che teoricamente con questa struttura di tassi di interesse continua a essere interessante, e ha a questo punto un rischio positivo che i titoli possano crescere in futuro di prezzo. E questo è un po' il consiglio che mi sento di dare in questo momento. Benissimo, allora io non riesco a sentire anche la ricetta che ci poteva offrire Luca Vaiani o che ci poteva offrire Michele Colosio, ma magari riproporremo questo argomento in avanti nelle altre puntate, tanto ricomincia, insomma, la stagione di Salvadanaio, e ho la sensazione che quest'anno continueremo, insomma, a divertirci parecchio anche con questi chiari di luna che il mercato sta vivendo. Quindi io ringrazio di nuovo i nostri ospiti di questa mattina, Tognoli, Vaiani e Colosio, grazie anche a Pietro Lacorte per la collaborazione in regia, Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Salvadanaio torna domani, nel frattempo, insomma, buona giornata a tutti, speriamo.